Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. In questa puntata di Romanzi in valigia voglio parlarvi di due romanzi ironici e divertenti, scritti fra l'altro da giovani scrittori. Allora, il primo si intitola Voglio solo ammazzarti e l'ha scritto Stefano Piedimonte, pubblicato da Guanda. È un libro in cui si ride, si sorride, a volte anche in modo amaro. È un po' sullo stile dell'altro romanzo che aveva scritto Piedimonte, Nel nome dello zio. Anche in questo Voglio solo ammazzarti si parla della criminalità della camorra, nello specifico, in modo ironico, quasi divertente. Ma come mai Piedimonte è tornato un po' sullo stesso genere, appunto l'ironia applicata alla criminalità? Definiamola così. Sentiamolo. Perché mi sembrava che i protagonisti del primo romanzo, vale a dire lo zio e un altro paio di personaggi, avessero ancora qualcosa da dire. Al di là della storia, al di là del plot, no, della trama, avevo l'esigenza di far dire a questi personaggi, a queste persone, ancora qualcosa. Per cui ho creato un altro contesto in cui potessero dire qualcosa di nuovo. E in questo caso, ecco, poi la storia ovviamente cambia e... Certo, succedono tante altre cose, insomma, sì. I personaggi ci sono... Però, ecco, è quasi diventato un personaggio seriale lo zio. Cioè, sì, normalmente sì. Gli scrittori, non so, creano un commissario seriale, non il criminale seriale. Oddio, forse c'è anche qualche serial killer seriale. Esperimenti, sì, di criminali seriali. Pensa solo a, non so, i Soprano, no? Le serie TV. Sì, però cioè... nel tuo caso, appunto, con questo stile ironico, così non mi vengono in mente altri esempi. Insomma, lo zio tornerà in altri prossimi tuoi romanzi? Questo non lo so ancora. Onestamente, ti dico proprio le cose come stanno, non lo so ancora, ci sto pensando e non lo so ancora. Per quanto riguarda la scelta del registro, a me sembrava che questi personaggi presi poi dal, diciamo, plasmati un po' su dei personaggi che esistono, che sono esistiti realmente, anche se non corrispondono ad un personaggio in particolare, ad un boss in particolare, ad un malavitoso in particolare, mi sembrava che già avessero le caratteristiche per essere interpretati come dei personaggi letterari e che quindi già facessero ridere per conto loro, no? E quindi tu ci hai messo giusto la ciliegina sulla torta, diciamo. Sì, sì. Anche perché ricordiamo, tu sei un giornalista, ti occupi di Nera, insomma, quindi questi fatti li conosci da un punto di vista professionale della cronaca, invece qui li hai voluti romanzare. Sì, in verità non scrivo un articolo di cronaca da un paio d'anni almeno, sono iscritto al... Però sei giornalista dentro. Sì, sono giornalista dentro. Però sì, è innegabile, ovviamente l'esperienza di cronista di Nera mi ha fornito un sacco di materiale, no? Per scrivere romanzi. Adesso faccio solo questo, mi diverto insomma a scrivere romanzi, però il materiale per parlare di queste cose qui, di questi contesti qui, di queste dinamiche, l'ho raccolto dalla realtà, negli anni, insomma, della cronaca nera. Sì. Allora, sono molto divertenti anche i nomi e i soprannomi che tu dai a questi personaggi che girano intorno al boss, lo zio, che tra l'altro, lo ricordiamo, si è scoperto subito nel primo romanzo, è un appassionato del Grande Fratello. Nel primo romanzo questo gli aveva creato qualche problema e in questo, insomma, vediamo che cosa succederà. Allora, girano intorno allo zio il suo, come dire, vice, che si chiama Germano Spickespan. Perché? Sì, Germano Spickespan si chiama così perché lui è quello che ripulisce le scene del crimine e soprattutto i luoghi, insomma, dove ha ammazzato gente. No, lui è bravo a eliminare le tracce, per questo Spickespan. Addirittura raccoglie i bossoli dopo che ha ammazzato qualcuno, cioè è chirurgico. È quello che pulisce, insomma. Sì, è quello che pulisce, da qui il suo soprannome. Il soprannome. E poi c'è Harry Potter. Che è il troncamento, sì, di Harry Potter. Lui è Harry Poe alla napoletana, no? Harry Poe, è per questo che... Io già rido quando leggo, insomma, questi soprannomi che Stefano Piedimonte dà appunto ai suoi personaggi. Lui si nutre di cocaina, purtroppo ha questa fastidiosissima dipendenza. Poi, insomma, non ne va certamente fiero, infatti cercherà di fare qualcosa poi per eliminarla, questa dipendenza. Ed è uno degli sfigati, insomma, che stanno un po'... Eh sì, dietro. Insomma, nel gruppetto di criminali è quello un sì, po' più sodali più dello zio. Ecco, e poi c'è un altro personaggio meraviglioso con il quale tu apri questo romanzo, che è Steve Chops. Sì, Steve Jobs, insomma, lui ha maldestramente ereditato il suo nome, il suo soprannome dal guru della Apple, no? Ed è uno smanettone, uno di quelli lì che cominciano masterizzando film, CD, no? DVD, craccando le schede di Sky. Fa parte della nuova criminalità, insomma. Esatto. E poi arrivano a specializzarsi, a diventare delle figure di riferimento per il clan, cioè degli esperti, insomma, degli affari informatici, no? Ne esistono tantissimi. Io per lavoro, ovviamente, un paio li ho conosciuti e fanno questo. Non è che fanno rapine e poi anche... Loro sono proprio gli esperti informatici dei clan, che allora, si occupano anche di contraffazione. Per conoscere meglio un po' la scrittura di Piedimonte e anche questo Steve Jobs, che mi piace moltissimo, vorrei leggere qualche riga di questo romanzo. Ma secondo me, Stefano, è meglio se la leggi tu, perché ti esce, insomma, con la giusta atmosfera. Ciruzzo Steve Jobs era soltanto un volto. Nel buio della stanza, la luce del monitor ne illuminava la sagoma dalle spalle in su. Ed era un bene, in fin dei conti, perché se già la faccia sembrava un panettone con tanto di uva passa, il resto era coerente con l'insieme. Lo schermo del PC parlava una lingua che solo lui e pochi altri erano in grado di capire. Numeri, stringhe, codici sorgente. Le nottate trascorse al computer con un posacenere stracolmo e un blister di anfetamine made in India non avevano fatto altro che accentuare i tratti peggiori di un uomo nato sfortunato, molto poco in comune col guru della Apple da cui aveva maldestramente ereditato il nome. Il problema era di importanza cruciale: come inserirlo nella gerarchia della famiglia? Un programmatore è più o meno importante di uno spacciatore? È più o meno importante di un rapinatore? È più o meno importante di un estorsore e di un killer e di un commercialista? Alla fine gli avevano dato i gradi di capo piazza, una sorta di super pusher che coordina gli spacciatori all'interno di una determinata area. E a lui andava bene, anche perché nulla escludeva una futura promozione. Anzi, questa commessa aveva tutta l'aria di potergliene offrire una. Allora, Steve Jobs è quello che, insomma, gestirà poi dal punto di vista informatico un piano, un progetto. L'evasione, sì. L'evasione, dire, solo, no? Diciamo, sì. L'evasione dello zio che è finito in carcere, sì. A Poggio Reale, detto Poggi Poggi. Poggi Poggi, sì. E quindi sistemano una serie di telecamere per come dire, sondare che cosa succede in questo carcere, insomma, per mettere appunto il piano. Sì. Senza adesso svelare troppo, naturalmente, di come va a finire questo piano. Com'è che operano Steve Jobs, Speakerspan e Ripo? Sì, lui in qualità di esperto informatico fa questo, crea un'app, lui crea app utili al caso, no? C'è un'app per tutto e c'è un'app anche per evadere, per cui lui fa questo, crea questo. A uso e consumo strettissimo dei camorristi, insomma. Sì, dei camorristi e poi degli iPad craccati, no? Quelli lì che hanno il sistema operativo taroccato, per cui possono far girare anche le app non autorizzate dall'Apple Store, no? Per cui lui crea quest'app che monitora le mura perimetrali del carcere, mette delle webcam sui balconcini che stanno intorno al carcere di Poggi Poggi e segue i movimenti dei secondini, no? Di quelli lì che stanno a perlustrare le mura perimetrali, per cui poi da lì, proiettando queste immagini affiancate sullo schermo dell'iPad del clan, lui aiuterà appunto i soldati, certo, dello zio a tirarlo fuori. A un tempo si facevano gli appostamenti, adesso giustamente con i nuovi mezzi, sì, mezzi l'evasione tecnologici, 2.0. Ma lo zio vuole evadere anche perché ha, come dire, un obiettivo specifico che si chiama Jessica con la G. Sì, con la G, grazie a un errore dell'anagrafe e all'ignorante analfabetismo paterno soprattutto. Sì, lui deve dare la caccia alla sua traditrice, alla persona che l'ha venduto alla polizia, che in questo caso sì, è anche la sua ex moglie. Ed è proprio questa la causa scatenante della sua furia, no? Vendicativa, perché magari fosse stato un altro a tradirlo, per assurdo avrebbe potuto lasciar correre, no? Però, ma questo affronto no, assolutamente. Questo affronto no. Purtroppo, sai, spesso con le donne l'amore si confonde col possesso, no? Specialmente quando abbiamo a che fare con questi personaggi, mm-hmm, qui. Quindi ovviamente la sua furia è moltiplicata in questo caso, per cui deve evadere per dare la caccia al suo traditore. Poi l'arrestano, lo ammazzano, non gliene frega niente. L'importante è che lui riesca ad evadere e a trovare la persona che l'ha venduto. Io prima, all'inizio di questa intervista, dicevo che si sorride, a volte si ride con i tuoi romanzi, però spesso in modo amaro, insomma, perché si capisce che dietro queste storie ci sono cose vere, ovviamente. Sì. E secondo te romanzi così ironici come i tuoi possono servire effettivamente a mettere in luce il problema Camorra? Sappiamo che tu anche con Roberto Saviano hai fatto anche delle performance pubbliche dove avete parlato in modo ironico della Camorra. Secondo te è un mezzo? Sì, in quel caso lì erano ironiche, però era materiale vero. Io e Roberto siamo andati a spulciare le ordinanze d'arresto, oppure sai, gli articoli di giornale, abbiamo tirato fuori tanta roba che metteva in ridicolo queste persone, storie vere, e le abbiamo raccontate a Pordenone, al Festival a Pordenone Legge. Quindi abbiamo messo anche insieme due modi di vedere la criminalità molto diversi, no? Fra loro. Lui scrive saggi, lui è un chirurgo, lui analizza il materiale prima di pubblicarlo e fa un lavoro completamente diverso dal mio, che io non sarei mai in certo, grado tu di fai fare. Fiction. Io faccio fiction, lui no. E abbiamo messo insieme questi due modi di vedere il problema della criminalità, anche per far capire alle persone che magari non lo sanno, alcuni magari sì, altri no, che questi personaggi, questi killer efferati, questi malavitosi, oltre a essere quello che sono, cioè oltre a essere dei malavitosi e dei killer, sono anche dei poveracci. Molto spesso è gente ridicola, che ha dei tic imbarazzanti, che non riesce neanche ad allacciarsi le scarpe, per cui riderne sì, può aiutare. Il compito di chi scrive un romanzo, l'idea di chi scrive un romanzo non è questa, no? Tu sai, scrivi un romanzo perché vuoi scrivere una bella storia, sperando che sia bella, ecco. La pedagogia e l'etica devono rimanere fuori dalla narrativa. In quel caso lì noi speriamo che deridere questi personaggi mettendoli in mostra, no? Mettendoli al centro di una piazza nudi e dicendo alle persone: ecco, questi sono i personaggi di cui avete paura, di cui abbiamo paura, può aiutare sicuramente. Questo era Stefano Piedimonte che ci parlava di Voglio solo ammazzarti, pubblicato da Guanda. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. E passiamo ora a un altro romanzo ironico, divertente, che secondo me, insomma, sarebbe opportuno mettere in valigia quest'estate. Lui si chiama Francesco Muzzopappa, è già questo, insomma, a me fa ridere il nome, scusate, ma è così. Il libro si intitola Affari di famiglia, pubblicato da Fazzi. Allora, Francesco, lo so che non bisogna scherzare sui nomi, sui cognomi, ci mancherebbe, perché, ma Muzzopappa? Sì. Cioè, sì. Sì, capisco. Ti ha influenzato questo cognome poi nello scrivere cose ironiche? Perché insomma, uno che si chiama così, esatto, o fa il comico o scrive in modo ironico oppure si deprime. Da piccoli è un trauma chiamarsi Muzzopappa e quindi ho superato il trauma. E recentemente però mi sono reso conto che c'è gente che sta peggio. Ho trovato in giro il cognome Cantacessi, ho trovato in giro il cognome Scacabarozzi. Eh sì, Scacabarozzi è famoso. Quindi direi che mi è andata Vabbè, anche poi bene. Insomma, parlo io, mi chiamo Tedesco di cognome, mio padre si chiama Italo-Tedesco, quindi insomma sui nomi, sui cognomi possiamo dirne parecchie. Ma passiamo al tuo libro, il tuo romanzo. Ho detto, questo è un romanzo ironico, si intitola Affari di famiglia. Tu avevi già scritto un libro divertente che si intitolava Una posizione scomoda, con una copertina un po' osé. Un po' osé, diciamo così. Questo Affari di famiglia è scritto in prima persona da una signora, diciamo, ex ricca, ex benestante, possiamo dire così, e quindi tu hai la voce di una donna in questo libro. Perché hai deciso di scriverlo in prima persona da parte di lei? Perché mi piacciono molto i romanzi scritti in prima persona. Nel percorso che intendo fare, se mi sarà data l'opportunità di farlo, di scrittura, intendo comunque cambiare sempre voce, scrivendo sempre in prima persona, che è una cosa complicatissima perché di volta in volta dovrò cambiare personaggio. Rispetto a Una posizione scomoda, che era scritta in prima persona da un ragazzo di 30 anni, la sfida che ho accettato con me stesso è quella di mettermi nei panni di una donna di 68 anni, vedova, con un figlio cretino. Un figlio cretino, sì, devo dire, il figlio è veramente meraviglioso, perché mentre lei, insomma, vive ancora un po' nel sogno dei fasti che c'erano stati, ma si rende conto che prima appunto mangiava i pasticcini, lei aspetta, dice proprio le frolle di una determinata pasticceria e adesso deve mangiare le gocciole come esatto. Tutti noi umani, insomma, il figlio è veramente un idiota, cioè non si rende conto che i tempi sono cambiati e lui non può sperperare il denaro di sua madre. Esatto, è il prototipo del cretino patentato, diciamo che in qualche modo ho cercato di parodiare personaggi che circolano comunemente in televisione o comunque quelli con il cervello ancora incelofanato, mai usato, quindi è il mio tentativo di creare in qualche modo anche uno scontro generazionale, no? tra l'anziana contessa che dovrebbe lasciare, come dire, il patrimonio e le redini della famiglia al rampollo di 30 anni e invece questo rampollo che se ne frega completamente e pensa solo a sperperare il capitale di famiglia in donne e probabilmente cene, ristoranti e altre stupidaggini varie, esatto. Insomma, è bello anche il rapporto che c'è fra questa contessa e il suo maggiordomo. Lei precisa che lo chiama maggiordomo proprio all'italiana, non butler come va di moda insomma definirlo, e c'è un rapporto particolare perché tutto è basato molto sulla riservatezza. Lei a un certo punto dice: mi avrebbe fatto piacere avere forse un maggiordomo più così brillante, insomma, che avrebbe potuto farla ridere, mettiamola così. Invece hanno questo rapporto perfetto e assolutamente vicino e distante nello stesso tempo. Esatto, diciamo che il mio punto di riferimento, io a cappello amo tantissimo la letteratura umoristica, quindi ovviamente non prescindo dalla lettura dei classici dell'umorismo e quindi tra questi Woodhouse. Sicuramente c'è tanto di Jeeves nel maggiordomo della contessa, ma gli ho aggiunto una vena in più, un tic che lo rende particolarmente insopportabile in alcuni momenti, la sua passione per le poesie di William Blake, che tuttora io detesto. Che lui invece sa a memoria. Esatto, che mi ha tartassato per tutti gli anni universitari trascorsi a Bari nella gloriosa facoltà di lingua e letterature straniere. E quindi sì, c'è un rapporto di odio-amore, ma soprattutto di totale, come dire, corrispondenza, nel senso che Maria Vittoria sarebbe persa senza il maggiordomo e la stessa cosa per il maggiordomo, che accetta di rimanere nella tenuta pur guadagnando praticamente nulla perché la contessa non ha più una lira da spendere. La contessa è consapevole che la sua situazione, diciamo, finanziaria, anche sociale, è cambiata? È consapevole, non lo accetta, si dà da fare per cambiare le carte in tavola e quindi da qui parte poi il gimmick, no, che si propone all'interno del romanzo, che possiamo dirlo. Sì, possiamo dirlo, anche perché c'è scritto anche sulla bandella, sul risvolto di copertina. È il fulcro di tutto il romanzo, cioè in scena il proprio rapimento per ricattare suo figlio e riprendere indietro dei soldi che il figlio in qualche modo ha impegnato per i suoi vizi e, come dire, con una... Vuol farla pagare al figlio, diciamo di sì. Avrebbe anche tutte le ragioni, devo dire. Sì, perché è veramente idiota. Io ho cercato proprio di definire al massimo l'idiozia di questo ragazzo e infatti tutti i contrappunti comici che ci sono all'interno del romanzo puntano molto anche sulla presenza del figlio e sulla acidità, sull'atteggiamento snob della contessa, che è veramente molto accentuato. Giusto per farvi capire insomma la psicologia di questa contessa, vi leggo quello che c'è sulla quarta di copertina. Non sono una fanatica del surreale, ma se solo pochi giorni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei ritrovata da sola a dover gestire il mio rapimento, probabilmente sarei esplosa in una di quelle fragorose risate che mi prendono quando vedo in TV quei tizi che leggono l'oroscopo, convinti che la sfortuna in amore per i nati a novembre sia da attribuire agli influssi di Giove. Devo dire che in questo romanzo ci sono molte, proprio non posso dire molte frasi ironiche, cioè proprio tutta la costruzione del pensiero anche di questa donna che è molto autoironico. Questa è una cifra che ti appartiene o che trovi solo nella scrittura? Mi appartiene tanto. Prendo a prestito una citazione, una frase di Woody Allen, che è uno tra i miei miti personali, che ha sostenuto in uno dei suoi film più famosi, Melinda e Melinda, che la vita si può prendere o secondo tragedia o secondo commedia. Io tendo a sdrammatizzare e quindi, secondo me, attraverso la lente distorta e la commedia si può cercare di restituire uno specchio fedele della realtà, facendo sorridere, che è quello che faccio, insomma. In Italia spesso quando si leggono libri, diciamo, umoristici o comunque ironici, si pensa spesso che non siano letteratura, insomma c'è questa idea, questo pregiudizio molto diverso per esempio dal mondo anglosassone, insomma abbiamo degli esempi, tu poi appunto hai studiato lingua e letteratura straniere, lo saprai sicuramente meglio di me, degli esempi come, non so, Alan Bennett e così via. Perché secondo te da noi c'è ancora un po' questo pregiudizio? Perché si tende a pensare comunemente che la scrittura debba solo far piangere o riflettere. Non si pensa che la scrittura potrebbe anche sollevare nella gente dei momenti di depressione o di anche per anche di noia, diciamo. Di noia, sì, ma infatti, cioè, c'è tutta una cultura che potrebbe essere ripresa e trasmessa, solitamente invece si tende a ignorarla. È una cosa che non mi spiego totalmente, anche perché in TV l'ironia va tantissimo, al cinema. I film comici, certo. No? Hanno comunque il loro spazio. Sì, è sulla letteratura che tendono poi a definirla un po' di genere, cioè a metterla da parte, non so, quando è nata l'ironia al femminile, la cosiddetta chick lit, Bridget esatto. Jones and sì. Company, è stata appunto relegata come per dire, insomma, questa non è letteratura, questa non è narrativa. È un pregiudizio bello e buono, ma noi siamo qui per combatterlo. Diciamo, ma tu l'hai letto Bridget Jones? Io non ho letto Bridget Jones, però ho spolpato tutta la letteratura di stampo umoristico inglese, da ovviamente sicuramente quelli più recenti, quindi Alan Bennett, Wodehouse, Tom Sharp, però io vengo da studi classici, quindi anche Jonathan Swift, che è erroneamente considerato solo come lo scrittore delle avventure di Gulliver, quando invece ha scritto pamphlet satirici, invettive, che in realtà tendevano a spiegare il momento politico e sociale della vita inglese, e poteva cambiare attraverso le sue parole la percezione della realtà, della politica. È quello che faccio io, cioè in realtà quello che mi interessa fare è far riflettere la gente su cosa ci sta capitando attraverso un sorriso. Ed è una cosa complicatissima, perché far ridere su carta è complicato. Far ridere e far sorridere su carta infatti non è una cosa facile, perché il lettore deve completamente identificarsi nella voce narrante e nella sua psicologia. Devo dire, in questo libro Affari di Famiglia si riesce abbastanza facilmente, quindi insomma si prende il ritmo come se si fosse nei panni della contessa. Tu che metodo hai di scrittura, appunto perché è difficile riuscire a far sorridere o ridere sulla carta? Cerchi la frase ad effetto, la limi, la giri come scrivi? Allora, diciamo che la commedia è fatta sia di umorismo, di situazione, che di battuta. La situazione va creata, quindi in qualche modo la struttura iniziale deve essere già chiara nel momento in cui ci si mette a scrivere. La battuta invece può venire anche lì per lì, però ci lavoro sodo. Vuoi ridere? Io per scrivere i miei romanzi mi sveglio tutte le mattine alle 5. Ecco, già questo mi farebbe piangere comunque. Perché sono molto marziale con me stesso, sono probabilmente un kamikaze, quindi mi sveglio alle 5 del mattino, dalle 5 alle 9 io scrivo, e questo libro per esempio prima di uscire ha vissuto 52 stesure, perché sono un maniaco dei tempi comici. Questo mi è dettato anche dalla mia cultura, no? Umoristica. Questa è la dimostrazione che è molto più complicato a volte scrivere un libro ironico, umoristico, che non magari un libro di trama, così, perché ha bisogno di un lavoro proprio di cesello per certo. creare i tempi comici. Immagina solo che, per esempio, se siamo al cinema, una scena stereotipica è quella di un uomo vestito per bene che scivola sulla buccia di banana. Certo. Puoi puntare sull'espressione, puoi puntare sul vestito che si sporca, puoi puntare, come dire, sulla gente che lo guarda, mentre invece sul libro, sulla carta, hai solamente una frase, e quella deve bastare a farti sorridere, quindi è molto complicato. Però si può fare, e si può fare anche in maniera molto alta, non necessariamente si va di battute, di tormentoni, per intenderci alla Zelig. Mm-hmm. Si può scrivere in maniera profonda, in maniera seria, usando la commedia. Infatti ci sono molte le riflessioni che si possono fare attraverso questo romanzo. Adesso così mi sono ricordata l'incipit che ho riaperto adesso di questo libro. Quando ti dicono signora spinga, di solito ti aspetti di veder spuntare fra le urla le lacrime e l'immagine di tuo marito svenuto a terra, le gambette di un neonato, una testolina o una piccola mano con le piccole dita. Insomma, questo è giusto l'incipit per capire come la contessa considera suo figlio, che in realtà... Eh sì, non è proprio un lampo di genio sto ragazzo. Fin da quando è nato lei non ha avuto proprio un rapporto. Lei ha un cattivo rapporto con i bambini in generale, con i ragazzini, non li sopporta, anche perché credo, data l'età, non ha proprio voglia di star lì a giocarci. Però poi, pian piano, durante l'incedere del romanzo, la contessa diventerà molto più morbida e pian piano poi chissà come evolverà. Ah, assolutamente, questo è un mistero. E allora il libro che vi consiglio di mettere in valigia oggi è Affari di famiglia, scritto da Francesco Muzzopappa, e lo so, si chiama così, che cosa ci possiamo fare? Adesso tutti i Muzzopappa d'Italia mi scriveranno delle mail di insulti, pubblicato da Fazzi, la storia appunto di questa anziana. Oddio, ho detto anche anziana, diciamo ultra sessantenne, contessa che insomma ha dei problemi economici e cerca di sbrigarsela organizzando il suo rapimento. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri e Romanzi in Valigia è tutto. Vi ricordo che d'estate, insomma, gli appuntamenti con i libri si sono moltiplicati. Abbiamo l'appuntamento alle 6:45 del sabato, poi sempre il sabato alle 14 appunto con Romanzi in Valigia, la solita puntata del Cacciatore è il sabato alle 22, la domenica il consiglio di lettura alle 8:10 e infine la replica la domenica alle 14. Insomma, vi perseguiterò quest'estate. Grazie in regia a Pietro Lacorte, una buona lettura da Alessandra Tedesco. We'll be right back.